Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, sono a Padova e sono davanti all'antico, bellissimo palazzo del Monte di Pietà, perché all'interno c'è allestita una mostra davvero, davvero singolare. È una mostra che racconta la vita e soprattutto le grandi scoperte di Galileo Galilei, ma le racconta attraverso le opere d'arte. È possibile raccontare Galileo e la sua grande scoperta, cioè il nuovo cielo di Galileo, attraverso le opere d'arte? Una bella sfida. Bene, entriamo e ci rendiamo conto che la sfida è vinta. Perché? Perché Galileo stesso veniva da un mondo circondato da opere d'arte. Per esempio, una delle prime sale racconta che Galileo era stato avviato dal padre allo studio della medicina, che era un'arte in quel periodo. Poi è stato avviato allo studio del disegno. Galileo diventerà un disegnatore straordinario, infatti sarà in grado di disegnare la luna perfettamente come la vide nel cannocchiale. E poi era un musicista, Galileo sapeva suonare il liuto, quindi un classico intellettuale rinascimentale. E tra i suoi interessi c'erano anche gli interessi che riguardavano la matematica. Lo studio della musica lo porta alla matematica, la matematica lo porta a guardare il cielo. Come guarda il cielo? Guarda il cielo perché un olandese porta nel 1609 in laguna un cannocchiale, cioè un occhiale con il cannone, un occhiale lungo. E Galileo lo migliora e invece di guardare il nemico, perché a quello servivano i cannocchiali in quel momento, guarda verso il cielo. E da lì comincia la rivoluzione che la mostra racconta attraverso quadri, libri stampati, incisioni, statue, fino alla grande riscoperta della verità delle teorie di Galileo, che avverrà nell'Ottocento, e con questa parte finale la mostra si conclude.